Rock FM。 Pet Sematary, qualcuno scrive: beh, anche Garavelli potrebbe suonare nella tribute band dei Pay, come siete cattivi. No, nel senso che io non so, sono un asino, non so suonare nulla, quindi ciò vuol dire che se posso suonare nella tribute band dei Pay, insomma, dai. 9:33 minuti primi, grazie a Pet Sematary, la versione dei Pay, abbiamo la voce femminile, quella di John Jett con I Love Rock and Roll. There by the record machine, I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song, and I could tell it would be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it would be long that he was with me, yeah, me. Got up and asked for his name. That don't matter, he said, 'cause it's all the same. I'll take you home where we can be alone. And next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with Insieme a Lita Ford è stata componente del Run Waves, uno dei tanti vinili che avevo portato nella nottata di Hard and Heavy Nightmare, e poi per motivi di tempo, durata solo 6 ore, non sono riusciti a programmarli. Era il rock and roll al femminile, in questo caso di Joan Jett. Ancora una voce femminile, Yours Vain, quella di Carly Simon. You walked into the party like you were walking onto a yacht. Your hat strategically dipped below one eye. Your scarf, it was apricot. You had one eye in the mirror as you watched yourself devout. And all the girls dreamed that they'd be your partner, they'd be your partner. Questa non è male di canzone. Pop finché si voglia, però quando un pezzo è bello e piacevole, lei è anche una bella fanciulla, poi è diventata moglie di... adesso mi sfugge, ce l'ho sulla punta della lingua, vi è mai capitato, adesso dico, eccetera. E non mi viene più in mente il marito di Carly Simon. Mannaggia. Vabbè, capita a volte, Un po' la stanchezza, probabilmente. Un po' il dormir poco. Carly Simon con You're So Vain. Vado a salutare. Mi verrà in mente, quando mi viene in mente ve lo dico. Vado a salutare e se si può anche consolare il buon Fabio da Ravenna, che dice: ciao Marco, scusa la cattiveria, ma volevo augurare tutto il male possibile al figlio di Bip, che l'altro giorno mi ha rubato il marsupio dal camion. Che vada tutto in medicina, eccetera, eccetera. Scusa lo sfogo, lo capisco, Fabio. Dai, non pensarci, so che non è semplice, però stai attento la prossima volta, non lasciarlo incustodito. Ebbene. Poi Francesca patente 740 mi dice: ma alla fine si è saputo chi era dedicata a You're So Vain? Francamente no, perlomeno l'avevo letto, ma non mi ricordo più. Ancora proseguiamo con il prossimo Tris Dassi con Jethro Tull, ZZ Top ed Aerosmith. Era James Taylor, grazie Nino, me l'hai detto bene. La memoria oggi mi ha veramente tradito, però questa è la bellissima Cross Eyed Mary per il Jethro Tull, con cui diamo lo start ufficiale a quest'altro nostro Tris Dassi. She dies in hand.

canzone quasi suddivisa in due parti, la prima cantata con melodie eccetera e poi danno sfogo alle loro improvvisazioni. Deep Purple, questo è Mandrake Root, nel quale si sente proprio anche l'organo di John Lord, che ha annunciato, diciamo che come Iris ha dato lo start a questa canzone. Qualcuno mi chiede in effetti che cosa dice, oltre a dire naturalmente il suo nome, che ha fatto parte dei Deep Purple, che sa che questa radio sta per chiudere e quindi lancia questo, non dico appello, ma però dice agli ascoltatori di Rock FM di aver fede, di credere nella musica rock e che Dio vi benedica. Saluto Andre, un salutone anche a Claudio, a Carlo, sempre a proposito della canzone You're So Vain, mi segnalano, sembra che fosse dedicata all'attore Warren Beatty. E poi James Taylor, come abbiamo detto, grazie anche ai vostri aiuti, è il marito, anche se, e questo lo sapevo, hanno divorziato più di una decina d'anni fa, esattamente nel 1982. Un saluto quindi anche ad Anton, Samantha da Genova, che dice: stamattina mi sono dimenticata l'auricolare sull'autobus, mi mancavate. Un salutone anche a Laura, a tutti gli amici che stanno piano piano scrivendo con un sms al 335 100 7777. Detto questo, tra breve ritorneremo insieme qua su Rock FM, entreremo nella nostra seconda ora con la formazione degli Yes.